buonasera. Pompino. Dammi il controllo, sto provando baracchino, un Saturnetto. Come sto uscendo? 9+20 in radio 5. Ok, ho fatto alcune saldature, dicevo da fare, pulito i contatti con lo, col coso. Con la trivelina, sembra che stia andando. No, già va bene, già va bene. Come mi ricevi tu, Saturnetto? Fa un passaggio? 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Pomponi, ascolti questa modulazione. Cambio basso. Segnale 9, la 10-5. A Parrogero. Antone, pompugno, pompugno. Senti qua, pompugno, Antone. Attento, pompugno, pompugno, pompugno. Ora, ora, ora, ora. Attento, pompugno. Pompugno. Avanti, chi sei? Chi sei? Avanti con la buonasera. Ciao Mirko, buonasera, ben ascoltato. Saverio qua, in città di Sassari. 9, segnale 9, a picchi positivi, 9+5, radio 5, non ci sono problemi. Come sto arrivando io in quelle coordinate, Mirko? Avanti. Questa è in propagazione, invece 9+10. Pompugno, come sto arrivando ora? Che abbiamo fatto qualche accorgimento, cambio. Ehi, sono qua, aspetta che... mi ha fatto il difetto 2 secondi fa, non riuscivo né in trasmissione, non mi dava la trasmissione e ricezione, adesso ho toccato una spirantina e sembra che stia andando. Dopo gli ripasso come si chiama ripasso. Quindi vediamo sempre se va per le balle. Però la radio ce l'è bassa, dimmi il mio rapporto di segnale ora, Antonè, poco fa mi hai dato 9, guarda un po' se ho migliorato qualcosa, avanti. Aspetta, cosa hai detto, se è migliorato? Il mio segnale, guarda un po' se sono sollevato come segnale o se sono uguale a prima. Vamos, vamos, so. 1, 2, 3, stella. 9+10, sì, la 10-5. Andare, ciao Claudio, ciao, buonasera. Avanti Mirko, Mirko Larghero, che antenna stiamo testando? 1-2-3 stella, 1-2-3 stella. Ciao Cla. Ciao, fratello la radio Massimiliano. Sto usando quella, sto usando adesso. Ho pulita, ci hanno contattato da quando mezzo staccata, gli ho fatto il saldo 2 nuove e adesso ce n'è un'altra di contattiera da pulire. Perché a volte spariva come si chiama l'audio. Trasmissione di Stanivaso, è una schiaccia importante in pratica non schiacciavo l'accidente. Adesso ho toccato dei fili e sembra che si sia rimessa in ordine. Dopo gli faccio come si chiama, la trevina anche lì e vediamo di togliere i problemi. Aspetta un secondo, Pompo. Mirko, guarda che non sei uscito in radio, c'era solo la portante muta. Ok, fai qualcosa perché non sei uscito in radio. Avanti, Cla. Ciao, Giovanni, buonasera. Ora c'è Cloppa e Mirko. Mirko, dove sei? Alla grande, Santiago 8, radio 5. No, arrivi bene, Mirko. Ciao, buonasera, ben ascoltato. Santiago 8, radio 5. Va bene, ottimo, non c'è problema. Avanti, Eia, Mirko qua 9 a picchi positivi, 9+5. La radio è 5, normale, non è molto forte, la radio però è 5, buona. Arrivi ottimamente, dai. Ehi, avanti Mirko, avanti. Ehi, accoppia il microfono a tavolo, io sto usando quello che hai detto tu ora, l'N+5. Penso che la radio già va bene, dai. Esco bene anche con il microfono originale, però diciamo con questo un po' di amplificazione in più ci dovrebbe essere. Mi da quando si scende bene, mi da quando hai fatto questo accorgimento. S9, 5, 9+5, radio 5. Super 5 la radio. Ehi, no, è uno, cra. era quella fesseria, quella virgola, dice si cavo RG58 dall'apparecchio al coso, nulla da fare, l'amplificazione più di 48 non potevi alzarla, ho messo l'RG213, boh, finito, no, alzi il microfono, qualcuno mi ha detto no ma metti un cavo legato sotto oppure lo colleghi a un tubo di acqua, ma siamo a bufoleni, un cavo elettrico che va a finire fuori dalla ringhiera, in terrazzo, no, ho detto esci a vedere che faccio uno spezzone di 213, risolto il problema. Ma c'è tu non l'ascolti a te Claudio, perché ti cambiava l'impedenza se avevi c'era un rientro di RF, capito, mentre invece adesso hai 213 sull'antenna, spezzone 213 accordato, tutto a misura, tutto fatto, non c'è più rientro di RF, tutto lì, queste sono prove e problemi che abbiamo già superato negli anni di esperienza che abbiamo fatto un po' tutti, capito? Quando tu metti un RG58 all'interno, poi mi metti un altro tipo di cavo sull'antenna, poi mi buono un altro spezzone di cavo sullo strumento, è tutto, va tutto a casino, il cavo deve essere tutto uguale, altrimenti ti cambia l'impedenza, capito? Ti cambia tutto, perché uno c'è un guadagno, uno ne ha un altro, e così, capito? Vabbè, comunque, adesso deve stare uscendo bene, non c'è problema. Tutto K di Rogero, avanti Antone. Oh, e poi Cla, ti posso dire una cosa che ho constatato, i collegamenti che sto facendo da qua, da dove abito qua, con una quarto di onda nel Poggiolo, i collegamenti che sto facendo da questa abitazione non li ho fatti neanche da casa di mamma con una 5 ottavi sopra il tetto con 6 metri di palo, adesso non so perché, sarà la posizione, perché comunque anche a casa della mamma lo utilizzavo un 747, sono un centinaio di watt e quindi con una 5 ottavi, con una buona antenna, non con un antennino da Poggiolo. Lo sai avanti di notte con chi stavo parlando? Con l'Irlanda. Ma no, è quello che volevo dire io. La posizione è molto importante, io ho un'apertura micidiale rispetto a dove ero prima, e con tutto che ero in zona altissima, palazzo alto, libero e tutto, ma qua c'è un'apertura di propagazione molto molto molto più aperta rispetto a prima, anche se chiaramente essendo più lontano il segnale dentro Sassari è più basso, ma non me ne frega niente, ma collego tutto, ma non 27, sto parlando in HF, molto molto più aperte le frequenze, molto più sensibili in tutto, capito? Siamo in posizione, se andiamo a passare a piano terra, e chi dice in un grattacielo, nel senso che c'è una differenza di altezza, non è differente, capito? Quindi è normale che sia così, non ti preoccupare, l'antenna va benissimo e la posizione che hai è molto importante, tutto qua. Vai Mirko, che antenna hai montato Mirko, quanti metri è con l'antenna? Quello è buono il cavo, ottimo cavo. E quello ce l'ho io ci ho messo i palloni lo stesso. C'ho H1000 su un'antenna e ho messo i palloni su un'altra antenna, capito? Tipo i 213, ma non ha niente a che fare con 213 e con H1000, molto molto superiore al messo i palloni. È un cavo che costa 5-6 euro al metro, però tira tutte le prestazioni che servono, capito? Poca perdita e molto guadagno, tutto qua. Va bene, va bene, va bene, va bene. Stavo dicendo Cla, allora ogni notte io quando rientro da lavorare accendo alle circa le 23:30 e automaticamente parlo fisso con Portogallo e Spagna, quelle sono fisse, poi come gira parlo con la Francia, ci sono i tedeschi però non riesco a dialogare perché col tedesco potrei parlare solo l'inglese, quindi scambiamo due parole, mi dà il rapporto di segnale e basta. Ma arrivo alla canonata, cioè la verità sono veramente soddisfatto, con un'antenna un quarto d'onda, se io salgo sopra il tetto qua e metto quella mantova 5 con questo aggeggino di Vanna Marchi della Casa Mutua, guai. Io, beh, ognuno fa quello che può, cosa vuoi ti dica? Io qua se dovessi mettere l'antenna sopra la casa arrivo molto meglio di come arrivavo anche da Sassari, ma non me ne frega niente. Lascio tutto così com'è perché non agio più gana di fare i giabeduri. Va bene così, ci sentiamo, due chiacchiere. Il tempo rimasto a disposizione è sempre più scarso, quindi giusto per sentirci va bene, però si può sempre migliorare. Vabbè. Dai, sentitevi, io vi lascio, io ho delle cosette da fare, me ne vado a fiare il prato, devo fare. Ciao ragazzi, divertitevi, alla buon divertimento, il cambio per Mirko, vi ascolto ma non riprendo, ciao ciao. Guarda me l'altro sulla riserva. Mi metto la franca. Figurati che arriva in diretta a 2 metri qua la Francia. Arriva la faccia in diretta con lo scala. Ciao Mirko, ciao, ti saluterò Roberto, intanto lo vedo di persona ogni mattina, ciao Claudio, dai, stavo parlando al telefono. Ciao Mirko, io entro in luce e devo andare al corso, oggi c'è una lezione importante, non so chi deve venire, è una lezione importante, vediamo come si evolve. Poi la devo anche registrare perché c'è un amico, un caro amico che non può essere presente oggi perché è un'assemblea di lavoro e quindi fa tardi, verrà per portare il modulo da spedire alla federazione a Milano. Infatti stasera dobbiamo andare anche per quello, bisogna portare Claudio il modulo compilato con la foto e pagare il versamento per l'iscrizione del club, Radio Club. Ok, Nicolai, ci sentiamo a presto, un abbraccio e buon innaffiamento.